ma in van minaccio amor ride il superbo dell'insane ire mie. E se non posso a terri tu di flige tonte dei, il poter di Melissa in mia difesa, in certo il fin, certo Melissa il rende.